as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Allora, salve. Oggi al di pane e rose abbiamo una puntata tecnica, una puntata in cui finalmente affronteremo un'avvertenza, una battaglia non per chiusura, una battaglia non per licenziamenti, una battaglia in realtà per un rinnovo del contratto interno di un'azienda che praticamente è una delle poche aziende nel campo dei motori riduttori che non sono in crisi. Un'azienda che si trova nella zona di Bologna, un'azienda che in questo momento ha anche assunto del personale ed è cosa molto rara. Calcolate che noi in Bonfiglio Riduttori, che è la numero uno nel campo dei riduttori qui a Bologna, siamo in cassa integrazione, ormai è passato un sacco di tempo e non abbiamo più ragazzi cosiddetti interinali e assunzioni, soprattutto nel montaggio non se ne vedono ormai da un bel po'. Anzi, ci sono state chiusure di contratto e molti ragazzi interinali sono purtroppo andati a casa. Dunque abbiamo questa azienda che è nel campo dei motoriduttori. Siamo stati chiamati ad intervenire in questo presidio organizzato dalla FIOM. In questa azienda c'è la FIOM, ho visto che c'era anche qualche bandiera della FIM, e lì abbiamo praticamente intervistato un delegato di questa azienda, la Transtecno, si trova ad Anzola questa azienda, e abbiamo intervistato questo delegato della FIOM, il quale ci ha spiegato la loro avvertenza. Una avvertenza molto semplice, poi ne parleremo dopo nelle conclusioni. Adesso mettiamo un pezzo che ricordo a tutti, vuoi o non vuoi, la storia siamo noi. Nel mondo metalmeccanico in Italia la FIOM fa le battaglie per il rinnovo del contratto nazionale, per il rinnovo del contratto interno, anche in aziende molto piccole, stiamo parlando di supera il centinaio di operai questa azienda, ma i lavoratori stanno chiedendo soldi, salario e diritti. Ecco, ne parleremo dopo, nelle conclusioni, ma per adesso ascoltatevi questo bellissimo pezzo, che insomma a me piace tantissimo, e poi sentiremo il nostro compagno, delegato della FIOM, da Transtecno, e ci sentiremo anche per le conclusioni. A dopo. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde del mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono, tutti sono uguali, tutti rubano alla stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze e brucia. La storia da torto. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere. La gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri, insieme a quelli che non sanno nemmeno parlare, ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. Siamo noi padri e figli, siamo noi, bella ciao che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano. Allora, siamo qui alla Transtecno di Anzola. Siamo qui con il delegato Antonino Cargui, delegato RSU della FIOM. Allora, siamo qui. La FIOM ci ha chiamati, sono venuto. Ogni volta che la FIOM mi chiama, noi arriviamo perché c'è un presidio, un bel presidio, vedo, molto partecipato. Cosa è successo? Racconta ai nostri ascoltatori la vostra avvertenza. Allora, noi siamo chiamati al rinnovo del contratto interno aziendale. E abbiamo avuto un confronto diretto con l'azienda e abbiamo, di fronte alle nostre richieste, l'azienda praticamente ha fatto la loro controproposta, che abbiamo ritenuto effettivamente un po', diciamo, offensiva. Ah. Nello specifico, di fronte alla parte più importante, che è la parte relativa al premio produzione, c'è stato risposto di un incremento di 50 euro. In questo momento noi abbiamo un premio produzione di 650 euro. Però ricordiamoci sempre che parliamo di quote teoriche, infatti... Quanto avete chiesto voi invece? Noi abbiamo chiesto un tetto massimo di 1500 euro con un anticipo di 500 euro. Sì, come noi. Esatto, ma comunque l'azienda subito sull'anticipo ha detto no, e di fronte alla nostra richiesta, che ha considerato un po' esagerata, ha risposto con 50 euro, 50. Quindi portarla a 700 euro. Un'umiliazione. Esatto, lì ci siamo sentiti effettivamente, lì dove praticamente è saltato il tavolo, ci siamo sentiti veramente offesi. In quanto ricordiamoci che noi siamo in un'azienda che ha, insomma, alle spalle un'importante realtà, produce buoni utili e quindi... Cosa fate esattamente? Noi siamo nel campo dei motori riduttori. Ah, come noi, sì, è vero. Quindi, sì, esatto, siamo questi competitor, per cui... E diciamo che siamo in ottima salute, per cui la rabbia... Avete anche assunto, vero? Esatto, la nostra rabbia appunto legata... Siete tra i pochi, esatto, la nostra rabbia appunto legata a questo fattore qua, che stiamo bene, non si capisce quale motivo l'azienda se ne esca fuori, insomma, con queste risposte a dir poco... Cioè, non hanno senso, diciamocela certo. Chiara. E quindi niente, praticamente ha detto no su quasi tutte le nostre proposte, ci ha detto soltanto 50 centesimi di aumento sul buono pasto, adesso portiamo sui 50, arriverebbe a 7 euro, e sul welfare da 200 lo porterebbe a 250 euro. Rendiamoci conto che effettivamente è poca cosa, e quindi e questa è effettivamente la risposta che abbiamo dato. E niente, cosa dire, in questo momento prevale un sentimento un po' di delusione da parte di noi, perché ci rendiamo conto veramente che questo mondo è malato, questo mondo ti fa capire che, insomma, il ricco è sempre più egoista, pensa, insomma, ai suoi profitti, e insomma, la classe operaia arranca per arrivare a fine mese, va dietro a questo potere d'acquisto, insomma, che viene sempre meno. E quindi le difficoltà sono veramente oggettive. Non si spiega come appunto in un'azienda del genere ci siano queste risposte. Ma sono italiani loro? Sì, l'azienda fa capo al gruppo Interpump di Reggio Emilia. Ok, Interpump. Quindi è una serie di consociate, per cui sì, italiani. E dunque loro hanno fatto dei fatturati molto buoni, perché molto è l'unica buoni. Azienda che sta assumendo dei mondo, esatto, di riduttori. Non si capisca mai come mai questa ridistribuzione della ricchezza non venga effettuata, sta diventando utopia praticamente. Ma più che altro questi qua ti fanno capire che fondamentalmente loro fanno concorrenza sleale verso le altre aziende attraverso i vostri salari, perché questo loro mi stanno dicendo, che invece di aumentare in produttività, aumentare in qualità, robe varie, abbassano i costi e voi siete un costo. Eh sì, esatto, alla fine rappresentiamo un costo e non una risorsa come noi pensiamo di essere. Dunque, se adesso farete altri scioperi, presidi? Adesso ci attendiamo la risposta dell'azienda, cioè più palese di così di risposta io non capisco cosa si possa attendere. Diciamo che non ci aspettavamo di al primo incontro subito avere, insomma, saltare la trattativa in questo modo. Voi sapete che avete diritto anche ad avere dei soldi dalla FIOM per il contratto? Perché noi come FIOM, io faccio parte del FIOM nazionale, abbiamo un fondo, adesso non so se è sicuro al 100% se avete diritto o meno, ma un fondo che laddove le aziende non vogliono rinnovare il contratto interno, una cassa di resistenza, adesso se potrei sbagliarmi, ma è così. Nel vostro caso vi dovete informare con il vostro funzionario, che si informi con il tesoriere, poiché dal nazionale esiste un fondo a livello nazionale proprio in questi casi. Nel caso tipo vostro non viene utilizzato questo fondo, non è previsto per casi di chiusure, che per me è sbagliato questo, ma è previsto nei casi in cui c'è un problema di rinnovo del contratto interno, nel vostro proprio caso, in cui le aziende non vogliono rinnovare il contratto, se non mi sbaglio, e in cui ci sono delle possibilità di accedere a questa cassa di resistenza. Adesso diciamo, mi informerò anch'io per voi. Anche noi ci informeremo, quindi. Mi informeremo per questa cosa qui, ma è una situazione, perché è veramente una cosa che fa arrabbiare. Sì, ripeto, siamo veramente delusi. Siamo delusi perché non si spiega, non ci sono altre ragioni per cui io faccio sempre il paragone di un padre di famiglia, ma se un padre di famiglia sta bene, insomma, ha un buon lavoro, ha un buon reddito, perché quando va a casa, insomma, vede il figlio e vuol fargli un contentino, non si tiene per sé, ma che senso ha? La vedo, insomma, in una logica di familiare. Sì. Ma loro hanno anche altre aziende nel giro fuori dell'Italia o c'è solo Transtecno qui? No, anche fuori d'Italia. Cioè, dove? Sì, Spagna, India, sì, ci sono. Un po' come la Bonfiglioli, sì, che sì, si è allargata un po' in tutto il mondo. Sì. E dunque i vostri prodotti li fanno anche di là, oppure voi fate solo questi prodotti, li fate solamente qui? No, noi abbiamo anche un'importante importazione dalla Cina. Allora, voi importate i sottogruppi dalla Cina? Esatto. Qua, e poi qua voi li personalizzate, esatto. Voi non avete qua macchine che producono casse? No, abbiamo anche noi, abbiamo un reparto produttivo nostro interno in Italia. Casse, sì, video e corone. Sì, siamo avanti. Però è come che vi arriva una roba dalla Cina? Cosa vi arriva dalla Cina? Allora, diciamo che prima importavano la maggior parte dalla Cina. Sottogruppi. Esatto. Poi negli anni hanno assorbito una piccola azienda da artigiani e hanno fatto la produzione interna. Ma vi arriva ancora casse, video e corone dalla Cina? Sì, ancora arriva parte di roba dalla Cina. Ma arriva già accoppiata? Accoppiata, sì, da montare. E voi solo personalizzate? Personalizziamo. Ok, ho capito. Perché... Però che prodotti fate qua, viti, casse e corone? Che tipo di prodotti fate? Qua facciamo dai motoritori e martinetti, tutto gruppo. No, dico le macchine che avete, cosa producono come casse, viti e corone? Noi abbiamo dei torni, delle frese. Che prodotti fanno? Di riduttori, viti, casse e corone? Sì, esatto, sempre? Sì, tutto il blocco fanno. Ok. E dunque, perché questo qua è importante, perché vuol dire che comunque hanno investito tanto qui. Sì, sì, qua si parla di grandi investimenti. E appunto, anche il discorso degli investimenti non si capisca perché si investa sempre nelle materie, nei macchinari e non nelle risorse, quindi nel personale, che dovrebbe essere la prima cosa. Anche i manager, immagino, hanno avuto l'aumento, stanno bene, esatto, ce ne sono parecchi come da noi. Un altro di discussione è stato per il famoso 13%, sì, di cui si è parlato tanto, sì, che si sono fatti dare, insomma, i manager. E noi siamo rimasti un po' a bocca asciutta. Questo è. Adesso la FIOM vuole vincere questa battaglia, è intenzionata, io li vedo abbastanza convinti. Sì, ti vedo, c'è stata una bella risposta, effettivamente, di questo siamo contenti, siamo coscienti. Per cui, facendo un confronto tra di noi, emerge se questo è contento. Come l'adesione? L'adesione è alta, vedo veramente un'alta adesione. Quanti ne siete qua i dipendenti? Allora, qua abbiamo messo in 150 dipendenti. Certo. E qua ne vedo... Quanti impiegati? L'impiegato ce n'è parecchi, perché a livello produttivo da noi siamo in 20, più altri 8 dall'altra parte, per cui il resto tutto qua fra magazzini e impiegati. La maggior parte sono impiegati, sì, allora? Sì. Ecco, considera che questa nasce come un'azienda commerciale. Questa è un'azienda che comprava e vendeva. E comprava roba dalla Cina e esatto, vendeva. Adesso avete, è una specie di filiale questa. Esatto, esatto. È una specie adesso di è un'azienda produttiva, ma in passato era un'azienda commerciale. Comunque in produzione siete in una trentina? Sì. Ah, siete in pochi? Sì. Abbiamo capito. Allora gli impiegati bisogna che facciano la parte da leone in questo caso. Sì, comunque ho visto anche da parte loro una buona risposta rispetto al passato. Certo, certo. Quindi hanno capito il momento. Insomma. Allora, noi saremo con voi, adesso andiamoci ad ascoltare vari interventi. Okay. Fatti piacere. Grazie, piacere mio. Siamo concorrenti, ma siamo compagni e saremo sempre con voi. Grazie. Padrone non vado esordio, dice sempre fatica, e non ci mangiamo limone, per due sordi caccerà, per due sordi caccerà. O padrone oggi è venuto, ci voleva parlare, va a corte che azzoppa tutte cose, e una botte ci ha guiuto là, e una botte ci ha guiuto là. We'll be right back. Allora, avete ascoltato l'intervista al compagno della Transtecno, al delegato della Fiamma della Transtecno. Abbiamo ascoltato questo pezzo meraviglioso che ci ricorda come i padroni sono egoisti, i padroni pensano solamente al loro profitto. Per i padroni noi siamo delle macchine umane, loro fanno i profitti sul nostro lavoro, e questo è il loro compito, la loro missione, e se possono ci sfruttano, se possono fanno di tutto per non aumentare i salari, lo vediamo sia a livello delle aziende sia a livello nazionale. Ora, la Transtecno è un'azienda, abbiamo detto nell'introduzione, e lo avete anche sentito nell'intervista, a proposito di chi non avesse ascoltato l'intervista potrà trovarla nella pagina del Pane Nelle Rose, dovrebbe uscire il podcast dopo la puntata. È un'azienda che va bene, è un'azienda che è nel campo dei remoti riduttori. Come mai non è in crisi? Allora, le spiegazioni possono essere molteplici. Io tenterò di fare una mia, visto che io sono nel campo, sono 25 anni che lavoro nel mondo dei riduttori, vi dico che questo tipo di azienda è un'azienda che oggi ha una logica molto molto anche semplice da un certo punto di vista. Produce le parti più importanti del prodotto all'estero, non rinunciando comunque a avere anche delle produzioni qui in Italia di necessità, ma la stragrande maggioranza delle componentistiche gli arriva dalla Cina o da altri paesi dell'Asia dove ha aziende, perché parliamo comunque di una Transtecno, fa parte del gruppo Interpump, che è una grande multinazionale, non è una piccola fabbrica ad Anzola che fa i riduttori, ma fa parte di un gruppo molto molto più grande di Interpump, che insomma è una realtà molto importante internazionale. E cosa fa? Fondamentalmente è una filiale commerciale, quella di Anzola. Loro fondamentalmente vendono prodotti, hanno il contatto metalmeccanico correttamente, io credo, visto che comunque fanno anche delle produzioni del montaggio. Non sono un semplice filiale commerciale di vendita pura, non è un negozio fondamentalmente in cui uno va a comprare i riduttori, ma sono fondamentalmente quelli che riforniscono il mercato italiano e anche non solo. E questo gli dà un grande vantaggio, perché fondamentalmente avendo il prodotto che viene comunque realizzato per la maggior parte della componentistica in paesi in cui il costo della manodopera è più basso, le tasse sono più basse, i costi energetici sono più bassi, riescono ad avere dei margini alti di guadagno e possono fare dei prezzi molto probabilmente concorrenziali rispetto ai grandi colossi che hanno tutta la produzione in Italia, ad esempio, almeno per quella che vendono in Europa e in Italia, e questo li aiuta molto nel loro mondo, nel marketing, nel commercio, di poter vendere i loro prodotti. Certamente ci saranno anche, non si possono ragionare di bassi costi, ma si parla anche di efficienza, di consegna rapida. Certamente una filiale commerciale, una filiale che ha già tutti dei prodotti che gli arrivano già semi montati, così sottogruppi, oppure componentistica da assemblare, gli arriva a delle quantità garantite, riesce a fare anche del magazzino, ha la possibilità di consegnare molto più velocemente di grosse aziende che hanno tempi molto più lunghi di consegna, e questo gli dà un grosso vantaggio sicuramente. Tutti gli investimenti che stanno facendo, è un'azienda che fattura, che va bene, ed è giusto che dia un premio di risultato a questi lavoratori, almeno di 1.500 euro. Non chiedono ai lavoratori, come facciamo anche noi, di premi di risultati di aziende blasonate, in cui parliamo di molti, forse anche il doppio di questo premio di risultato, però fino adesso hanno preso un premio di risultato molto basso, 600 euro, e loro li hanno umiliati dandogli solamente 50 euro di aumento. Mancano ancora 900 euro per arrivare alla cifra che era stata votata in assemblea dei lavoratori e presentata in azienda per il rinnovo del contratto interno. Allora, questa cosa ci insegna, questa avvertenza? Ci insegna che bisogna fare le battaglie, bisogna lottare, ci insegna che bisogna che la FIOM sostenga, e lo sta facendo, queste vertenze, non mollare anche in questi momenti di difficoltà, anche in questi momenti in cui l'attenzione è tutta nel contratto nazionale e il resto dell'attenzione è diretta per salvare le aziende che sono in cassa integrazione, che sono in crisi, ma è importante ricordare ai padroni che laddove ci sono i soldi e non solo, bisogna che li distribuiscano e che non vengano solo dati ai vari cosiddetti dividendi tra gli azionisti oppure in piccoli investimenti. Ecco. Quello che chiedono i lavoratori è di distribuire la ricchezza, di fare investimenti seri che possa garantire a loro la continuazione della produzione e dunque anche una certa stabilità occupazionale, che è la cosa più importante. Ecco. Noi siamo a fianco di questi lavoratori, saremo sempre al loro fianco. Io ho fatto una battuta, siamo concorrenti, ma in realtà noi non siamo concorrenti, noi siamo lavoratori che lavoriamo nel stesso settore e siamo favorevoli allo sviluppo del salario, dei diritti di lavoratori che lavorano in queste aziende, che è importante anche per noi perché evitano anche delle politiche di dumping. Facciamo fatica a raggiungere paesi in India, in Cina, in Vietnam, in Brasile, in Sudafrica, in altri paesi dove vengono prodotti riduttori. Non riusciamo ad incidere su quei lavoratori, ma almeno nella zona dell'Emilia Romagna io credo che dovremmo ragionare di una solidarietà tra lavoratori e di evitare che le aziende, attraverso la riduzione dei costi del lavoro, possa fare del dumping scorretto. Questo noi dobbiamo impedirlo, ecco perché dobbiamo comunque uniformare il più possibile gli stipendi, i diritti, i premi di risultato, i contratti interni, e questo ci dà garanzia per la tenuta a tutti quanti. Ecco. Un saluto e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao! Orgoglioso de estar, orgoglioso de estar, entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución!